La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al rumore. Se la storia italiana, anziché leggerla, ci mettessimo ad ascoltarla. Proviamo a scoprirlo insieme al nostro ospite Stefano Pivato, docente di storia contemporanea all'Università Carlo Bo di Urbino e autore del volume Il secolo del rumore, il paesaggio sonoro del Novecento, edito da Il Mulino. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Il Novecento è stato il secolo del rumore. Lo è stato in tutti i campi, artistico, letterario, politico, sociale. Pensiamo ad esempio a quella rivoluzione epocale rappresentata dall'avvento della ferrovia. Nel 1860, quando venne proclamato il Regno d'Italia, la rete ferroviaria nazionale si estendeva per 2200 chilometri. 10 anni più tardi raggiungeva i 6.470 chilometri. All'inizio del Novecento eravamo a 13.400 chilometri. Nell'arco di mezzo secolo, scrive Stefano Pivato, nel libro Il secolo del rumore, il paesaggio sonoro del Novecento, pubblicato proprio in questi giorni dal Mulino, borghi e campagne sono percorsi da binari, fili elettrici e soprattutto da locomotive, che con il loro fischio irrompono nella natura silenziosa dell'Italia di quel periodo. È il prezzo della modernità, di un mutamento epocale quanto repentino. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. Papa Gregorio XVI definì la ferrovia un'opera diabolica. Josué Carducci dedicò il suo inno a Satana, a questo simbolo della nuova era industriale. Ma era solo l'inizio. Dopo la locomotiva, ecco l'automobile. Un rumore nuovo, avvolgente. Nel 1897 nasce a Milano l'Isotta Fraschini. 2 anni dopo nasce la Fiat. E poi l'aeroplano, un rumore sordo, lontano ma onnipresente, che incarna il mito della velocità futurista, ma anche la politica contribuisce al nuovo secolo del rumore attraverso i simboli e i colori. C'è il cromatismo del movimento operaio, in larga parte incline al rosso, che esprime quel desiderio di rompere il silenzio alla base del rivendicazionismo proletario. Il blu viene adottato invece dalle forze conservatrici per esprimere valori come ordine ed equilibrio. Il bianco è il colore dei cattolici, evoca purezza e spiritualità. Il rosso e il blu definiscono codici e valori contrapposti. Alla pacatezza dei conservatori si contrappone l'urlo della folla. Il rosso, spiegavano i teorici del socialismo, appartiene a colori positivi e attivi. E come tale ha un'azione stimolante, incita all'azione e al movimento. E poi c'è il rumore fragoroso, inquietante della guerra, anzi delle guerre, combattute con armi via via sempre più sofisticate. E c'è poi il rumore dei comizi, delle adunate, contrapposto al tragico silenzio dei campi di sterminio. Il rumore assordante delle armi cede il passo nel secondo dopoguerra al rumore, questo sì finalmente benefico, della libertà e della democrazia. La sonorità si trasferisce nelle piazze e nei luoghi simbolo della democrazia, negli anni straordinari della ricostruzione, fino al boom economico della fine degli anni 50, all'esplosione dei consumi di massa, alla contestazione del 1968. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Buonasera, professor Pivato, bentornato. Grazie, buonasera a voi. Il suo libro che ci ha accompagnato questa sera in questo singolare viaggio nel Novecento, Il secolo del rumore, si chiude con una sorta di epilogo, anch'esso molto interessante. Dopo aver ripercorso il secolo del rumore, appunto, lei in qualche modo chiude questa fase, per così dire, nel 1973, quando il primo shock petrolifero costringe tutti ad andare a piedi e le città improvvisamente si fanno silenziose. Perché questo finale, professore? Ma per dare appunto la sensazione di come dopo quasi un secolo di rumore si precipita, proprio il caso di dirlo, in un'atmosfera che è irreale, forse surreale. Più che un'atmosfera direi una parentesi alla quale ci aveva abituato il rumore appunto delle macchine sospinte dal petrolio, e nel 73 sappiamo appunto che c'è questa crisi. Proprio l'ho voluta questa parentesi per far riflettere il lettore dopo un secolo di rumore come si precipiti nel silenzio. Ovviamente, ripeto, è stata di una parentesi, perché poi degli anni finito il 73 il boom economico riprende a navigare, quindi a far rumore proprio a pieni polmoni, anzi a pieni stantuffi. Nel suo libro ovviamente si parla del rumore, ma noi potremmo dire che si tratta di rumori di tipo diverso, perché un conto è il rumore del movimento proletario, un conto è il rumore delle armi. È un valore simbolico che si attribuisce a fatti che comunque sono diversi, per certi aspetti si sovrappongono nel suo... Diciamo che c'è un rumore reale e un rumore metaforico, è certamente a tratti lungamente metaforico il rumore del movimento operaio che inizia alzare la testa e soprattutto la voce quando inizia appunto a scendere nelle piazze, iniziano gli assembramenti, iniziano i comizi, iniziano i cortei. Pensiamo ad esempio a un quadro di Pellissa da Volpedo, che ci dà appunto l'idea di questa gente che avanza e che fino allora era rimasta silenziosa. Quindi la gente con la società di massa va in piazza a far rumore, a protestare, a cantare, a farsi sentire. E poi certo c'è l'altro rumore, questo tragico, sì, quello della guerra, perché la prima guerra mondiale è la prima guerra che si sente, e si sente anche in lontananza, perché se andiamo a leggere quello che scrive un fine psicologo come Padre Gemelli, lui annota appunto come le cannonate sulle Dolomiti si sentissero persino a Milano. Quindi è vero che è una guerra di trincea, il rumore è soprattutto è un rumore fra l'altro inedito, perché la mitragliatrice non aveva mai sparato, ma si sentono anche le cannonate a centinaia di chilometri di distanza. È la prima guerra che si ode, la prima guerra mondiale. E andando indietro un po' negli anni, io ho trovato molto interessante questo suo riferimento a quando la ferrovia fece il suo ingresso fragoroso, possiamo dire, nella storia. Noi abbiamo sempre pensato alla ferrovia appunto come un elemento di grande modernità. Forse nessuno di noi si è mai soffermato su quest'altro aspetto, che in fondo i treni violano in qualche modo la serenità di un paesaggio qual era quello della fine dell'Ottocento, che si era in qualche modo consolidato su una sorta, come dire, di silenzio accettato da tutti in qualche modo. Ah, certo, io inizio il libro parlando iniziando con la poesia appunto di Leopardi, Il sabato del villaggio. Ecco, pensiamo a quanti squarci introduce la locomotiva nei silenzi di cui parla Leopardi, nei silenzi delle campagne, il fischio della locomotiva, il rumore della macchina. Tra l'altro, se poi andiamo a vedere i sostantivi, gli aggettivi che vengono usati a proposito della locomotiva, sono tutti sostantivi e aggettivi molto ma molto rumorosi. Ecco, parlano tutti, quasi tutti urlano, parlano di mostro meccanico, ecco, per dare l'idea parlano di una diavoleria. Ecco, sono termini molto ma molto rumorosi, proprio perché rispetto ai grandi silenzi dell'Ottocento la locomotiva fa un gran rumore, soprattutto nelle campagne che sono immerse da secoli nei silenzi. la gente scappa, si spaventa di fronte alla locomotiva. E oggi, professore, il rumore è quello della politica, della TV. In qualche modo scopriamo per contrapposto il valore del silenzio. Il rumore di fondo, lei scrive nel suo libro, è la colonna sonora della nostra vita quotidiana, ma è un rumore diverso da quello della locomotiva. È un rumore molto diverso anche perché si accompagna, se così posso dire, anche alla una buona dose di poco civismo, di molta maleducazione. Se noi pensiamo ad esempio al ruolo che ha assolto la televisione delle origini, che era un ruolo pedagogico, educativo, qualcuno lo considera fastidioso, io personalmente no. Mentre appunto la televisione delle origini assolveva questo ruolo educativo, oggi mi sembra, se posso azzardare, che non assolva più a questo ruolo, anzi è fortemente diseducativa. Se pensiamo alle trasmissioni politiche, a una tribuna politica di inizio anni 70, dove c'erano questi corpi compassati, dove ci si rivolgeva le domande, dove non c'era sovrapposizione di voci, andiamo a 30-40 anni dopo, beh, pensiamo che cos'è oggi una trasmissione politica. Sembra quasi che siano esauriti i contenuti dei politici, cioè che cosa si contrappone al contenuto? Il tono della voce, ecco. Conti quanto più urli, e questo è veramente un risultato molto ma molto deludente, col risultato poi che lo spettatore rischia di non capire nulla e cambia canale. Come mai lei ha deciso di indirizzare i suoi studi, le sue analisi di studioso a questo fenomeno, cioè che poi è inedito in qualche modo? Io mi sono sempre occupato di storia sociale, mi sono occupato più di storia del senso comune che di storia delle idee, la storia dei sentimenti, la storia delle passioni, la storia delle sensazioni, e credo qualche anno fa ho pensato fosse giunta l'ora di fare i conti anche con quello appunto che io chiamo, che gli storici chiamano paesaggio sonoro. E sicuramente quando si parla di modernità, quando si parla di rivoluzione industriale, quando si parla di Novecento, inevitabilmente credo che si debba parlare di rumore per proprio tutto quello che ha prodotto sulla nostra psicologia quotidiana. Grazie professor Pivato, autore, come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata odierna, del libro Il secolo del rumore, il paesaggio sonoro del Novecento, pubblicato proprio in questi giorni dal Mulino. Grazie ancora professore. Grazie a voi.